L'abbonato della settimana. Nuova settimana della campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko e nuova puntata della rubrica L'abbonato della settimana. Stiamo indagando quali sono le ragioni per cui voi ascoltatrici e voi ascoltatori ci state dando il vostro sostegno. Oggi, anzi questa settimana, l'abbonato è Giovanni, che è al telefono con noi e che saluto. Buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Tu ti sei abbonato intanto tra le diverse modalità di abbonamento, crowdfunding, read, bonifico semplice, eccetera. Cosa hai scelto? Allora, io ho scelto il crowdfunding, però le ho viste tutte e è stata quella più veloce. Potrei sceglierne anche altre, magari. E allora ti arrivo subito al dunque facendoti la domanda del perché hai scelto di sostenerci. Ovviamente ti ringraziamo per questo. Allora, ho scelto di sostenere Radio Città Fujiko perché rientra nell'alveo, secondo me, delle cose importanti da fare oggi, che è questo: è il sostenere una modalità alternativa di fare in generale. Quindi l'ambito di Radio Città Fujiko chiaramente è quello dell'informazione ed è un ambito fondamentale insieme a tanti altri, quindi sapere di dare un piccolo contributo che poi diventa collettivo, il mio messo insieme a quello di tante altre persone, e pensare che questo fa sì che tanti e tante possano avere un'informazione, una fonte di informazione indipendente, mi sembra importantissimo. Chiaramente, come dicevo prima, è uno degli ambiti importanti, quello che un po' cerco di fare anche nella vita quotidiana e nelle altre cose per le quali mi impegno. Quindi lo vedo come un po' un completamento di queste cose. In più, il fatto che sia una fonte di informazione locale, quindi piantata a Bologna e che quindi ha un faro su quello che succede a Bologna, aumenta, no, ancora di più il mio amore per questa causa, perché oltre appunto a una fonte di informazione indipendente, come dicevo prima, lo è anche sulle questioni locali e del nostro territorio, quindi quelle che ci riguardano di più. Ecco, lo hai accennato parlando degli ambiti. Beh, allora ricordiamo che tu sei uno dei soci di Camilla, l'Emporio di Comunità. Esatto, io sono uno dei soci fondatori di Camilla, l'Emporio di Comunità. C'è anche una relazione ormai possiamo dire di lungo corso, anche se la nostra storia è ancora abbastanza breve, quella di Camilla, però con Radio Città Fujiko c'è una relazione da tempo. Ci sono diversi, insomma, alcuni soci che sono anche attivi in Radio Città Fujiko, facciamo delle cose insieme, tra cui uno spottone che va in onda su Radio Città Fujiko, quindi magari chi ci ascolta lo ha già sentito. In più abbiamo anche appunto aderito alla, come dire, essere tra i promotori della campagna abbonamenti. È un'iniziativa, così Alessandro ne approfitto per una pubblicità, certo. Un'iniziativa che faremo insieme appunto nell'ambito della campagna abbonamenti. Sarà il 12 dicembre, lunedì, alle 19, nei nostri spazi, quindi nel nostro emporio, che è in via Casciarolo 8, in zona San Donato. Facciamo la presentazione di un libro di uno dei nostri soci, Roberto Tomesani, che è un libro che descrive degli itinerari cicloturistici nella nostra zona fino al mare, e con la presenza anche di Andrea Utensili, che è uno dei vostri animatori e che è anche socio di Camilla. Quindi faremo questa iniziativa alle 19 e poi concluderemo con un aperitivo in quella sede, quindi ci sarà l'opportunità di venire a vedere il nostro emporio, quindi curiosare tra i prodotti biologici locali del territorio e di economia alternativa che ci sono, e anche trovare un banchetto di Radio Città Fujiko con gadget, altre cose, e la possibilità di abbonarsi quindi anche in quella sede, giusto? Perfetto, e infatti grazie mille tra l'altro per questa disponibilità. Ricordo allora l'appuntamento il 12 di dicembre alle 19 in via Casciarolo 8 a Camilla. Più in generale, insomma, Giovanni, io ti ringrazio. Buona campagna abbonamenti e poi ci vediamo all'aperitivo, no? C'è un aperitivone finale, giusto? Sì, esatto, hai fatto bene a ricordarlo, perché lo ricordiamo poco, perché tutti e tutte coloro che hanno scelto di abbonarsi poi potranno venire a fare una visita qui in radio e vedere quali sono i nostri studi e anche berci qualcosina insieme come aperitivo conclusivo. Grazie mille. Perfetto, grazie a voi. Ciao, buona giornata.